Eccomi qui, la stessa mia, come 6 anni fa, di nuovo qui, ti aspetto, sono in città ed ho un po' di nostalgia, vengo a prenderti se vuoi. Ti ricordi quella via? Eccomi qui, 6 anni in più, magra e attraente tu, di nuovo qui, e cerchi me tra la gente, con la mano saluti e 2 baci discreti tra noi due. Ti amo ancora e ancora vorrei amarti. Ti amo ancora e ancora ti vorrei per me. Amarti amore mio, ma un dolce amico tu io resterò, sarò lo zio per i tuoi bambini, io stringerò più forte il cuore, non ti disturberò.